Lo sa che lei si chiama come mio cognato? Le interessa questa notizia fondamentale per la sua esistenza? Buono sapersi, è una notizia. È un pochino come quello che quando prende una tamponatina nella macchina la vorrebbe nuova. Non ridere sotto i baffi perché ti vedo. No, perché... baffi non c'è già, no, scusami. No, vabbè, no, è un'immagine. No. Noi ci sentiamo lunedì. Ah, ecco, già, stavo dicendo domani. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Hey everybody, you know, getting active every day helps us all be healthy and feel great. Here are a few ways I get moving. Diamoci una mossa, è ora di cambiare, di muoverci, lo dice Michelle Obama, ideatrice della campagna Let's Move, letteralmente muoviamoci, che ha l'ambizioso obiettivo di convincere gli americani a investire sull'attività fisica come fattore di protezione e di prevenzione della salute. Michelle ci ha visto lungo, i risultati l'hanno premiata, tanto che l'anno scorso tra i bambini di 19 stati il tasso di obesità è fortemente sceso. Brava Michelle, cuore denari punta sempre su di te. Bravo, anche perché è brava, è una donna in gamba. E per cui, come dire, ci puntiamo doppiamente. Tornando a casa nostra, uno che si muove è senza dubbio Matteo Renzi, che piaccia o non piaccia, qui non entriamo nel merito, tra rottamazione primaria e staffetta non è stato fermo un attimo, ha dato un bel cambiamento alla politica italiana. Insomma, oggi il governo chiede la fiducia al Senato, si tratta di un cambiamento importante. In questi anni di attività politica anche il nostro neo premier è un po' cambiato. Nicoletta, che ne pensi? È un po' più in forma ultimamente? Sì, direi un sì. Sì, potrebbe fare di più. Si è un po' ragazzo, asciugato, insomma, dai. Perché ha avuto un po'. Si è ammorbidito, poi si è di nuovo riasciugato. Adesso metà e metà. Insomma, ogni tanto vedo. Ha cambiato il taglio dei capelli, per fortuna, perché era inguardabile. Comunque, si possono cambiare tante cose, piccole, grandi, dalla pettinatura alla casa, dal partner al lavoro. Ci sono persone che cambierebbero di continuo, altre che non lo farebbero mai, altre ancora che si concedono piccoli, oculati cambiamenti, non amano rischiare troppo, senza dimenticare quelli che cambiano ma regolarmente si pentono. E voi? 800 24 00 24. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Osate cambiare, cercate nuove strade. Ci sono dei piccoli cambiamenti che costano poco e fruttano molto. Ciascuno di noi lo ha sperimentato. C'è chi ha iniziato a sorridere e ha notato che le persone intorno lo guardavano in un altro modo. C'è chi ha cambiato strada e ha scoperto un piccolo mondo. C'è chi ha iniziato a correre e ha scoperto che, lasciando le pantofole a casa, ha guadagnato in forma fisica e mentale. E c'è chi... Completate voi, qual è quel piccolo cambiamento che vi è costato poco ma ha reso molto? E qual è quello che da tempo vorreste fare ma che per pigrizia, mancanza di tempo, paura anche della burocrazia di tutte le carte non avete ancora fatto? Raccontatecelo all'800 24 00 24, come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter oppure scriverci un messaggio. Anche noi oggi cambiamo e vi proponiamo il menù di oggi in modo un po' diverso. Come? Ce lo facciamo raccontare dai nostri esperti, vediamo se questo cambiamento è vantaggioso. Salutiamo subito il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Sì, oggi sono a vostra disposizione e sono a disposizione di chi vuole cambiare o perché non sta facendo nulla e quindi segue, diciamo, l'input di Michelle Obama, o perché sta facendo sport e si è stufato di farlo, perché ci sono anche loro, ma comunque lega all'attività fisica una necessità di cambiamento. E sapete che a me piace fare domande e trovare risposte, cioè vengo qui proprio per arricchirmi attraverso gli ascoltatori, quindi anche oggi parto con tre domande sulle quali vorrei tante risposte. Con quante esattamente? Non ho capito. Tre e la mia remoscia risulta evidenziata. E soprattutto il suo metodo e la sua parola d'ordine è gradualità. Ecco, adesso che sono stato sufficientemente messo alla berlina, no, io se vuole le domande. Dico Sassari, Sassofrasso. Okay. Non potete mica essere tutti perfetti come me, Certo. Assolutamente. Vada con le domande. Andiamo con le domande. Prima domanda: a chi sta facendo sport vorrei chiedere perché avete cominciato, cioè come avete cominciato, perché aiutiamo tutti coloro che sanno perché va bene farlo, ma li aiutiamo attraverso l'esperienza di chi ha cominciato. Quindi, okay, cosa vi ha portato a cominciare? Perché? Esperienza vissuta. A chi invece vorrebbe cominciare, non chiediamo per l'ennesima volta perché vuoi cominciare a fare sport, perché i motivi ce li siamo raccontati più volte, ma gli chiediamo esattamente il contrario. Perché non cominciate? Qual è alla fine il fattore che vi blocca? E possono essere diversi. E a chi invece lo sta già facendo e ha deciso di cambiare, e qui la domanda è un po' più banale, ma almeno una me la concedete, vorrei capire perché vogliono cambiare, cioè che cosa li ha portati a questo desiderio di cambiamento. Quindi perché? Perché no? E cosa cerchi? Perché sì, cioè perché avete cominciato, perché no, perché non ce la fate a cominciare, o perché cambiare se già lo state facendo. 800 24 00 24 ha fatto tre domande, diamogli tante risposte, ma il dottor Confalonieri dovrà lavorare molto. Sentiamo. Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e di sedentari. Secondo i dati Istat nel 2013, gli italiani che non vogliono darsi una mossa sono ben il 42%. Tra questi, vanno peggio le donne, che sono più pigre degli uomini. Chi si muove, invece, lo fa a rate. C'è chi lo fa saltuariamente, l'8,7%, mentre il 27,7% preferisce fare le passeggiate, nuotare o andare in bicicletta. E solo il 21% pratica uno sport con continuità. E pensate che non è solamente quello del movimento fisico il terreno in cui gli italiani sono proprio fermi. Fino a qualche tempo fa erano ritenuti immobili anche nelle loro abitudini di consumo. Altro che let's move, neanche un click. Dei veri propri gatti di marmo. E questa da dove ti esce? Questa è della mia nonna Candida. È da tanto che nonna Candida non la ripresentavamo. Appunto, a cuore denari. Certo. Insomma, gli italiani, sempre lo stesso negozio di alimentari, lo stesso calzaturificio, la stessa banca, lo stesso assicuratore. Negli ultimi anni invece ci sono stati profondi cambiamenti. Le famiglie hanno imparato a guardarsi attorno, a negoziare in modo efficace con il proprio interlocutore economico, a fare confronti per cercare le migliori offerte. Insomma, da tartaruga lepri? Sì, senti che sono ben 18 milioni le lepri in Italia, cioè gli italiani che usano il web per fare, adesso devo dire una parola difficile, infocommerce, cioè ricercare informazioni su prodotti e servizi e comparare i prezzi. E quindi c'è sempre molto movimento nel mondo dei comparatori di prezzi, che sono siti che mettono a confronto il costo dei prodotti di diversi fornitori e consentono quindi di trovare l'offerta più economica, quella che fa per noi. Quindi Nicoletta, qui ci vuole un domandone. Sì, allora, a proposito dei gatti di marmo, giochiamo un po' con gli animali, cerchiamo di descrivere la nostra propensione al cambiamento e al movimento sfruttando le caratteristiche di un animale. Correte come lepre, siete lente come bradipi. In che animale vi identificate riguardo alla voglia di muovervi e di cambiare? Scrivetecelo anche in un tweet, oppure chiamateci al nostro numero verde. Molti sono delle tartarughe, però. Sì, infatti. E ce lo facciamo confermare dal nostro secondo ospite di oggi, Marco Pescarmona, presidente di Segugio.it. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Portale che offre un servizio comparazione di prezzi e tariffe nei settori più disparati: assicurazioni, mutui, elettronica, energia elettrica, gas, telefonia, internet, pay TV. A lei la parola, si promuova, ma soprattutto promuova il tema di cui oggi parlerà e ci aiuterà con i nostri ascoltatori. Beh, il tema è che oggi è molto facile, confrontando le offerte, cambiando operatori per l'assicurazione, per la banca, per le utenze, la telefonia, eccetera, risparmiare delle somme significative. Una famiglia può risparmiare anche più di 1000 euro all'anno, sommando i 200 euro che si possono risparmiare, per esempio, nell'energia, a quelli che si risparmiano sugli altri prodotti. Quindi vale veramente la pena di fare un confronto. Poi questo non avviene così tanto. Io proporrei tre domande agli ascoltatori, un po' per fare un diagnostico del potenziale di risparmio. La prima domanda è questa: se vi sentite a vostro agio a valutare le offerte e le promozioni magari dei centri commerciali o dei supermercati, ma quando si inizia a parlare di telefonia, di energia, di banche o di assicurazioni vi sentite persi e non in grado di valutare. La seconda è se per caso avete la stessa tariffa telefonica per il mobile o il fisso, la DSL, da più di un paio di anni e se non avete mai cambiato fornitore per l'energia elettrica e il gas in tutti questi anni. Infine, terza domanda, per un prodotto un po' diverso, sull'assicurazione dell'auto. se avete la polizza auto sempre con lo stesso agente da tanti anni, che magari vi dice per di più di non fidarvi delle offerte che trovate su internet. E quindi a seconda della risposta poi che cosa potremo fare per Scarmona? Beh, alla fine capire se siamo tartaruga o lepre. Sì, se noi abbiamo confrontato, cambiato e via dicendo, siamo una lepre e probabilmente quello che potevamo risparmiare in buona parte l'abbiamo ottenuto. Invece se siamo delle tartarughe è una buona notizia, perché possiamo cercare di fare dei passi avanti e diventare un po' delle lepri. Ottimo, 800 24 00 24. Allora, su suggerimento di Marco Pescarmona, raccontateci se dopo aver avuto per tanti anni la stessa compagnia telefonica, lo stesso ADSL, lo stesso assicuratore, avete un giorno deciso di cambiare. Siete contenti del cambiamento oppure sapete che potreste avere un prezzo ancora più conveniente ma siete lì e non vi muovete? 349 238 6666 per i vostri messaggi. Avete anche Facebook, Twitter. Noi naturalmente vi aiuteremo a cambiare, ma se già lo state facendo e avete qualche dubbio, un intoppo, un dolorino, un muscoletto che non risponde, una compagnia magari che vi dà del filo da torcere, chiamateci, perché noi intanto che voi ci raccontate vi aiutiamo. Intanto, dottor Confalonieri, il dottor Pescarmona ci trasformerà da tartaruga in lepri. A lei che cosa, come ci farà, che cosa farà di noi? Io intanto introdurrei un terzo animale che è il gatto, perché io mi sento un po' gatto, sto lì tranquillo, mi piace stare un po' pigro, un po' accoccolato, però nel momento in cui vedo il topo, la cosa che mi interessa, sono pronto, balzo, la prendo e poi ritorno sdraiato. Questo potrebbe essere il comportamento ideale, no? Vediamo se tra i nostri ascoltatori non c'è anche qualche gatto. Cosa dice Pescarmona? Beh sì, è un buon modo di risparmiare risorse. Tra segugi e gatti. Esatto, quindi però, insomma, quando si sta lì fermi in osservazione, quando ci passa davanti l'offerta che fa per noi, zac, pronti ad azzannarla. E noi siamo pronti per sentire i nostri ascoltatori. Subito. Che hanno chiamato il nostro numero verde, Piera da Bergamo, Marco dalla provincia di Roma. Piera, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. A quale domanda risponde lei? Alla domanda dello sport. Alla domanda dello sport, questa l'ha solleticata un po'. Sì, anche l'altra, però questa soprattutto. Niente, io ho iniziato a fare sport, lo sport mi è sempre piaciuto, però poi verso i 30 anni ho avuto problemi di salute, nello specifico ho avuto problemi di asma. Sì. Problemi anche abbastanza gravi, perché sono stata ricoverata d'urgenza, eccetera, eccetera. E questo professore mi disse allora che io non avrei mai potuto fare delle grandi camminate, non avrei mai potuto soprattutto correre. Sì. Poi dopo anni, una decina di anni da questo evento qui, che poi ogni tanto si presentavano degli episodi, ho fatto questo cammino di Santiago de Compostela. Cioè, addirittura. Sì. Sì. Sono partita, punto e basta. Per, diciamo, spiritualità e per anche dimostrare a me stessa e anche conoscere me stessa. Alla fine del cammino ho capito che non solo potevo camminare, ma potevo fare anche degli enormi sforzi, perché lì ho fatto 28 chilometri, facevo circa 25-27. Sì, 30 anche, sì, sì, è un cammino straordinario. E l'ho fatto tutto, cioè dall'inizio, dalla Francia al Portogallo, in sostanza. E da allora, Piera, lei sta bene, fa sport? E da allora ho sempre camminato, faccio le mie camminate di un'ora e mezza al giorno, e adesso da un anno circa addirittura faccio delle corse, corro all'aperto per, non so, 30 minuti di corsa e poi magari 20 minuti di camminata. Faccio un appello allora ai nostri ascoltatori che sono lì, sono ancora seduti in poltrona, ma hanno magari un po' l'idea di fare il passetto, il primo passo per, non dico fare subito il cammino, ma per muoversi, perché il nostro, no, oggi la nostra puntata si intitola proprio Let's Move. Allora, il mio consiglio è muoversi, soprattutto andare nella natura, perché ci rigenera e ci dà un benessere incredibile. Ottimo. Grazie Piera. Dottor Confalonieri, quindi Piera ha subito risposto. Perché? Perché si è mossa un po' per misurarsi, per questa grande fiducia nei medici. Il medico le ha detto non faccia niente e naturalmente Piera ha detto, certo, sai che ti dico, non solamente mi muovo ma faccio anche il cammino, e ha ragione, perché l'attività sportiva è consigliata agli asmatici. estetici. Ma anche qua ci sono due risposte, direi. Una classica: ho cominciato a muovermi per salute, qui indirettamente, ma sicuramente tantissimi lo fanno per affrontare un problema fisico. La seconda è molto più interessante e veniva fuori dalle parole della nostra ascoltatrice: attraverso il movimento ho imparato a conoscere meglio me stesso. Ecco, questo secondo me potrebbe essere la chiave per tanti che non ce la fanno, cioè sfruttare il movimento per cominciare a dedicare un po' di tempo anche a noi, perché in effetti è quello che manca per dare qualità della vita a gran parte di noi in questo momento. Prenderci del tempo per noi, che può essere la lettura, può essere lo spettacolo, può essere la musica, ma può essere anche l'esercizio fisico, il movimento magari nella natura. E questa può essere la motivazione fondamentale. Comincio a occuparmi di me, comincio a volermi un pochettino di bene. Certo, può essere anche un ragionamento che si può fare a proposito invece della comparazione delle tariffe. Le leggo i messaggi, Marco Pescarmona, di due leprottini che abbiamo trovato al 349-238-6666. Cambio ogni anno e mi trovo sempre bene, in quanto ogni volta che faccio un reclamo scrivo anche all'ISVAP e le assicurazioni subito si muovono. Uno, assicurazione auto e casa solo online da almeno 6 anni, si risparmia dal 20% al 40%. Max da Padova. E abbiamo dimostrato, ce lo diceva anche lei prima, che il settore assicurativo è stato quello forse negli ultimi anni più il terreno forse più attivo in termini di cambiamento da parte degli utenti, no? Sì, c'è stato un aumento molto, molto forte della mobilità degli assicurati, anche perché adesso non c'è più l'obbligo di dare la disdetta per cambiare polizza, quindi basta trovare la nuova offerta alla scadenza e si passa direttamente al nuovo assicuratore. E il risparmio è veramente forte, soprattutto la prima volta, e questo è un po' lo sforzo psicologico che devono fare le persone, ma poi anche quei 10, 20, 30 euro che si risparmiano all'anno le volte successive, dopo che uno ha imparato, vengono veramente facili. Ci prende facili. Un po' gusto, sì, insomma, sì, vero? Sì. Nicoletta? Sì, volevo leggere il messaggio di Max da Padova. Assicurazione auto e casa solo online da almeno 6 anni, si risparmia dal 20% al 40%. Sì. Ma ci sono anche molti ascoltatori che ci stanno scrivendo perché che cosa li ha spinti a darsi una mossa e quindi a fare attività fisica. Ad esempio un ascoltatore ci scrive che è stato il colesterolo che l'ha obbligato. È sempre noto Max da Padova, ma anche altri ascoltatori ci scrivono che hanno dovuto smettere. Io posso dire che ho smesso di fare sport, 3 figli, 3 un anno può bastare, ma quando potrò ricominciare? Dottor Confalonieri, ci sono delle cose che ci fanno rallentare, ci costringono a non uscire per la nostra passeggiata, per la nostra corsa, per andare in palestra. I figli sono una di queste, ma lei per i genitori che hanno figli piccoli ha una ricetta che funziona sempre. Vede che gliel'ho servita su un piattone d'argento. È vero, provo lì che tendo anche un po' a ripetermi. No, ecco, innanzitutto non spaventiamoci, cioè sono nati figli, è un cambiamento nella nostra vita. Oggi vorrei che fosse un po' un inno al cambiamento questa trasmissione, no? Cioè non cadere nella routine che spesso poi è indice di bassa qualità di vita. Quindi possiamo anche accettare 2 o 3 anni in cui non facciamo più sport in modo continuativo proprio perché sono arrivati i figli. Si cambia, poi si ritornerà a fare sport quando questi cresceranno. Sfruttiamo naturalmente i figli, soprattutto se siamo genitori maschi che abbiamo una maggiore propensione a questo, per giocare con loro, per fare la lotta con loro, per mettere in gioco proprio la nostra corporeità e le nostre abilità motorie. Ma si può prendere anche il passeggino, fare ai bambini una bella corsa. La corsa col passeggino la lasciamo fare alle mamme americane. Sì, sì. Jogging, ma si può ballare, e ballare possono farlo i papà, certo, le mamme, certo. I bambini, era la terza via che univa uomini e donne, quindi la lotta per i maschi, il passeggino, le camminate per le donne, il ballo tutti insieme. Abbiamo sempre tempo. Con i bambini. I nostri ascoltatori. Certo, andiamo un'altra. Allora, persona. Andiamo da a Trento, c'è Stefano, poi avremo Marco della provincia. No, c'era Marco della provincia di Roma prima di Stefano. Scusi, yeah. Marco, la stavo superando. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E io mi collego al discorso del dottor Confalonieri sul cambiamento. Sì. Ecco, in effetti io credo che prima sì, bisogna iniziare a fare sport e poi il cambiamento viene di conseguenza. Per esempio io ho iniziato prima a fare sport, c'è un fastidio, un ritorno, vabbè, e ho cominciato a fare sport e poi ho smesso di fumare e poi ho regolato la mia alimentazione. Vede, proprio perché si bravo. Entra in un circolo virtuoso. Marco, io la bacerei, perché grazie. È vero, dal piccolo cambiamento, ma questo ce lo potrà confermare anche per le nostre tariffe il dottor Pescarmone, da un cambiamento tira l'altro. Grazie Marco, andiamo a Stefano che ci chiama da Trento, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, lei sta bene? Io sì. Bene, allora. Soprattutto da quando ho i figli devo muovermi molto di più. Va benissimo. Io chiamavo in merito al discorso delle tariffe. Sì. Allora, io da, sin dall'inizio, dalle prime compagnie online, ho aderito ad esempio alle polizze auto. Per dirvi, dallo scorso anno a quest'anno, sul mio mezzo, ho un risparmio di circa 180 euro, passando da una compagnia online a una, nuova, cioè con Italia. Quindi risparmio considerevole. Trovo molto più difficile cambiare in, in campo energetico. Ho cercato di consultare delle offerte, ma leggere i risparmi lì è molto complicato, molto. E infatti, Stefano, intanto è difficile fare raffronti in bolletta, no? Capire esatto, effettivamente a quale voce corre. Ci dicono prezzo bloccato per due anni, tre anni, poi cioè, diventa un po' complicato. L'altra cosa è che un campo telefonico anche, ho cambiato tre o quattro operatori, bisogna stare molto attenti alla qualità del servizio in caso di conti bassi, sperimentato purtroppo. L'altra cosa è che in campo telefonico anche c'è il giochino spesso, che è un deterrente fortissimo secondo me, dei costi che applicano i gestori quando uno vuole ricevere al contatto. Certo, è vero. 90, 100 euro, euro lì, Stefano, ce lo segnalano anche molti ascoltatori al 349-238-6666. Verificheremo con Marco Pescarmona se tutto questo è vero. Effettivamente anche in passato, mi ricordo con Salvadanaio, quando abbiamo organizzato delle puntate sulla portabilità della luce e del gas, in effetti con i vecchi operatori è molto difficile interrompere il rapporto. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. E noi ci muoviamo, abbiamo tantissime telefonate dei nostri ascoltatori che oggi hanno deciso di cambiare, di muoversi con noi, di iniziare a fare attività sportiva, magari di migliorare anche le performance, oppure di tornare a farla, ma anche di cambiare utenza. Anche questo è un cambiamento che può essere molto vantaggioso in termini di denari. Noi abbiamo ancora la risposta da dare al nostro ascoltatore. Che ha fatto, esatto, Stefano da Trento, tanti cambiamenti nel settore assicurativo, tutti si sono conclusi con soddisfazione. Per quello che riguarda invece altri ambiti, Marco Pescarmona, presidente di Segugio.it, un comparatore di tariffe nel settore elettrico, da luce, del gas e nella telefonia, i cambiamenti sono un po' più complicati. Perché? Sì, sono, risulta anche a voi? Beh, sicuramente, prima di tutto, il risparmio che si può ottenere è minore. Una parte di questo problema è legata al fatto che la tariffa, per una componente importante più della metà, è costituita da tasse o oneri di distribuzione che sono, esatto, più che altro uguali per ogni operatore. Quindi per una famiglia normale la parte che può essere variabile è 300-400 euro all'anno. Su questi si può ottenere un risparmio, si può ottenere un risparmio intorno ai 100 euro, però bisogna fare veramente attenzione a scegliere le tariffe più semplici che ci siano, cioè ogni operatore ha delle tariffe senza fronzoli, di solito sono chiamate tariffe internet, che hanno dei costi più bassi di quella che è la tariffa cosiddetta di maggior tutela del mercato regolamentato. Bisogna fare attenzione a scegliere una di queste offerte che non sono promosse in modo particolarmente attivo da parte degli operatori, ma si trovano in evidenza solamente sugli aggregatori. Le tariffe che vengono normalmente spinte nel mercato libero spesso sono invece più care rispetto a quelle del mercato di tutela. Bisogna fare un po' attenzione a questo. E allora, se avete fatto dei cambiamenti in questi settori, raccontatecelo all'800240024. Magari raccoglieremo volentieri anche i vostri suggerimenti da dirottare agli altri ascoltatori. Carlo su Twitter ci scrive: tre figli piccoli, corro tutte le mattine dalle 5 alle 7, poi preparo la colazione per tutti. Debora, ecco, Marco ha già due persone adottate seduta stante, che siamo io e Nicoletta, mentre andiamo a fare Marco, colazione da lui. Mentre Marco ci scrive sempre su Twitter: mi identifico in una lumaca lenta, certo, ma arriva dappertutto. È carina la lumaca, a me piace la chiocciola. Andiamo a Gianni, che ci chiama dalla provincia di Imperia, che ci permette con la sua riflessione di introdurre una domanda che si fanno in molti e che noi giriamo subito al dottor Confalonieri. Dottore, ma se io sto bene, mi sento bene, non ho chili da perdere, ho il colesterolo perfetto, la pressione che sembra da manuale, perché devo muovermi? Non posso limitarmi a mangiare bene? Questa è una domanda che molti magretti le avranno fatto, no? Perché ci sono anche i magretti pigri. Ma io tutto sommato dico non muovetevi. Ecco. Lo so che è una risposta, se vogliamo, un po' controcorrente. Politically correct. O non politicamente corretta, però obiettivamente se si sta bene, se non ci sono fattori di rischio a livello cardiovascolare, se non c'è un sovrappeso, perché uno deve muoversi? Soltanto se il movimento è un modo per aumentare la qualità della sua vita, cioè per occuparsi di sé attraverso qualcosa che gli piace. Ma se preferisce il teatro, la musica, il ballo piuttosto che la lettura, non vedo perché debba muoversi. Attenzione che il ballo è una via di mezzo, vero? Mentre lo dicevo mi rendevo conto. Comunque, per dire che non è obbligatorio muoversi, è importante farlo per la salute ed è importante farlo per il benessere psicologico. E poi arriveremo alle figure a cui bisogna affidarsi per scegliere bene. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, io esattamente. È una domanda che faccio a me stesso, ma in realtà serve un po' a tutti. In realtà mi trovo anche un po' una scusa, e cioè quella del tempo. Perché, dico per esempio, voglio andare in piscina, ho la fidanzata che ci va, però so che da quando decido di partire da casa, vado in piscina, torno a casa, ci vogliono circa 2 ore tra tutto. E quelle 2 ore spesso diventa un problema per me trovarle. In realtà magari le trovo, ma perché non ho la passione ancora di andare in piscina. Cioè non l'ho fatto, di conseguenza non mi sono appassionato. E dunque trovo questa scusa. È uno dei motivi, perché comunque muoversi vuol dire, si traduce anche in fare fatica, volere volare, no? Finché non diventa bello, non ti accorgi che è bello. Certo, all'inizio bisogna crederci, è dura, soprattutto poi verificare i benefici, perché poi secondo me chi si abitua molto spesso riesce a come dire, fare proprio il cambiamento totale, no? Addirittura non riuscire più a fare a meno dell'attività fisica. Assolutamente sì, diciamo che sperando che la motivazione non sia lasciamo 2 ore la fidanzata in piscina quando io vedo le coppiette in palestra che stanno tutte insieme mi vengono viene l'orticaria. No, diciamo che la domanda che pone l'ascoltatore è molto interessante. Infatti il primo criterio per scegliere è la comodità. Cioè noi dobbiamo scegliere un'attività che sia comoda e compatibile con i nostri orari di vita, se no l'abbandoneremo inesorabilmente. E basta fare molto poco, basta muoversi mezz'ora, basta muoversi una volta alla settimana o anche ogni 2 settimane se inizialmente non facevamo nulla, perché quel famoso inizio di cui si parlava prima. Poi man mano si andrà a creare quella dipendenza di cui parlava, di cui si diceva, che indubbiamente ci porterà ad aumentare gradualmente l'attività, magari anche diversificandola. Però è fondamentale applicare la regola di un terzo, quella che io ho già proposto più volte. Cioè se noi abbiamo a disposizione 3 volte la settimana tempo per fare sport, facciamolo una volta. Se abbiamo a disposizione 90 minuti, facciamo 30 minuti. Se abbiamo a disposizione 3 ore il sabato, facciamo 1 ora. Partiamo sempre dedicando all'attività un terzo del tempo che abbiamo teoricamente a disposizione. In questo modo probabilmente non ci stresseremo e potremo incrementare il lavoro. 800 24 00 24, diteci un po' se, come dire, da domani magari applicherete la regola dell'un terzo nella vostra nuova pratica sportiva. Però Marco Pescarmone, il fattore tempo è importante anche nel cambiamento del nostro gestore di luce, gas, e nel nostro gestore per quello che riguarda appunto l'utenza telefonica. Intanto quanto ci vuole a fare un confronto? Analizziamo un po' il fattore tempo andando sul vostro comparatore. Quanto ci metto? Facciamo la bolletta della luce. Devo prendere? Sì, l'ideale è prendere una bolletta della luce per sapere quanto si consuma. A fare un confronto rapido ci si mette non più di 5 minuti. Se uno vuole realmente cambiare, quindi vorrà approfondire un pochino le altre alternative, magari mezz'ora, una cosa di questo genere. Sei in mezz'ora anche, ho trovato... Ecco, anche per tipi gnocchi un po' come me. Allora... Andate già un po'. Se Mugio è a prova di gnocchi, È fatto per essere semplice, comunque un po' come per lo sport, cioè all'inizio è un po' più faticoso, quindi bisogna fare lo sforzo di cercare di capire delle cose nuove che sono spiegate nel modo più semplice possibile, ma che sono un po' nuove. Dopo che la prima volta si è capito come si valuta una bolletta elettrica, quali sono le differenze di prezzo, eccetera, poi viene facilissimo. Quindi la prima volta che si cambia, magari uno ci dedica 2 mezze serate, un paio d'ore una volta, un paio d'ore la volta dopo, per essere sicuro di fare la cosa giusta, poi compilare anche il contratto, mandarla alla nuova compagnia e via dicendo. Dopodiché tutti gli anni uno si farà il check-up in 5 minuti e se troverà delle opportunità migliori cambierà in un quarto d'ora. Voi con Segugio Pescarmona fate anche l'intermediazione del contratto, oppure l'utente cerca solo l'offerta migliore e poi deve fare tutto da sé, oppure potete già voi inoltrare anche la proposta di nuova relazione, diciamo, commerciale? Allora, noi normalmente per i vari servizi e prodotti che compariamo offriamo un'assistenza telefonica. Il modo in cui funziona è che noi aiutiamo in modo indipendente a scegliere. Se questo può essere un modo per, come dire, combattere la pigrizia e avere qualcuno che intanto ti aiuta a farlo. Diventano un po' personal trainer. Noi diamo assistenza per capire, poi dopo normalmente la sottoscrizione del nuovo contratto avviene direttamente con la compagnia che si sceglie. Noi passiamo, tra virgolette, gli utenti interessati sul sito della compagnia, gli raccogliamo i dati e poi possono farlo al telefono o via posta in internet. Però siamo sempre lì per aiutare. Posso fare una domanda? Sì, cosa vuole cambiare? Sì, approfitto sempre quando c'è un ospite. Ma noi siamo contenti perché sono ospiti di Cuore e Denari. Esatto, certo. Volevo capire se offrite anche un servizio di supporto rispetto all'utente che è in difficoltà, per esempio, con l'assicuratore di fiducia, che magari continua a dirgli: guarda che senza disdetta non c'è la possibilità di cambiare l'RC auto. Allora, io ho bisogno di trovare o il riferimento di legge o il parere suffragato per andare dal mio assicuratore e dirgli: guarda che mi stai prendendo in giro, se no magari mi spavento, è un uomo in cui ho fiducia e non cambio. O quelli che possono essere riferimenti legislativi rispetto a un cambio di utenza anche in altri settori. C'è questo servizio di supporto? Sì, assolutamente. Soprattutto per i prodotti assicurativi, anche quelli bancari, abbiamo un'assistenza telefonica che è in grado di rispondere a queste cose, eventualmente anche di mandare via mail il riferimento normativo, giusto per essere in pace con la coscienza. Sì, in pace con la coscienza è un po' più forte, poi quando si va a spiegare perché si è cambiato. D'altronde la società che si vuole cambiare utilizza tutti i deterrenti possibili per trattenere la clientela. Ci sono delle penali, per esempio, per chiudere un contratto, capita nelle compagnie telefoniche. In questo caso c'è la resistenza del magari assicuratore che ti dice. È anche vero che molti italiani preferiscono invece avere il rapporto con la figura come dire umana, chiamiamola così, certo. E fanno più difficoltà invece ad andare online, però insomma si devono sicuramente rispettare tutte le scelte delle famiglie Pescarmona. Sì, ma è soprattutto una resistenza psicologica e c'è una grande paura delle cose che possono succedere, dei problemi che si possono verificare se c'è un cambiamento. Quindi nello spostare il contratto la gente quindi ha paura. Quindi un po' conigli, possiamo sono dire. Un po' conigli, cioè la gente ritornando che cambia. Ritornando alla richiesta dei nostri che abbiamo fatto agli ascoltatori, identificatevi con un animale, raccontate il cambiamento. Quindi lei vede più conigli. Un pochino e senza ragione, cioè la gente ha paura che quando cambia il contratto della luce ci sia il rischio di rimanere senza corrente. No, male che va arrivano tre bollette, due, sì, tre, ecco. Ma di solito tra l'altro funziona anche bene, cioè di solito a cambiare, poi dopo problemi non ce ne sono e non ce ne sono tantissimi, e ci sono l'IVA per le assicurazioni, il garante delle telecomunicazioni, l'autorità del gas e dell'energia per i reclami. Che ne risolviamo che tante dobbiamo, nel pomeriggio, vero? Che dobbiamo andare a sentire però che cosa succede sulle strade o le autostrade, perché voi chiacchierate, arrivano gli ascoltatori, allora scrivono, andiamo. Cuore e denari. Eccoci qua ancora una volta, oggi puntata tutta dedicata al cambiamento. Sentiamo quale ha fatto il nostro Sergio da Monza all'800240024. Sergio, buona giornata. Buongiorno. Buongiorno, buona giornata a voi. Grazie. Niente, avevo chiamato le vostre ragazze lì per dire perché sì allo sport. Sì. A me è capitato quando ero ragazzino, avevo circa 11-12 anni a scuola, che il professore di religione mi disse che io pensavo solo a mangiare anziché a studiare. Era vero, perché Sergio? Non era del tutto vero, perché io studiavo lo stesso, mi reputo un medio studente e sono sempre stato in queste condizioni. Ma come mai le fece questa battuta, Sergio? Mi scusi. Ma non lo so, forse perché non avevo saputo rispondere a una sua domanda e adesso non ricordo più se è passato. Comunque, insomma, anni. Questa battuta l'ha segnata. Sì, mi ha segnato molto. Devo dire che io non è che ero fermo, anche all'epoca mi ricordo mi muovevo. Poi insomma ho sempre giocato a calcio, dopodiché mi sono trasferito a Monza, io sono di Foggia. Sì, adesso che fa Sergio? Allora, attualmente io faccio paracadutismo, perché al militare avevo fatto i para nella Folgore. Cioè, sono affascinanti i para, Sergio, eh? Sì, parlo del 76. Però sì, poi, finito il militare, niente, famiglia, figli, come diceva adesso. Ogni tanto ha bisogno di lanciarsi, Sergio, e ogni tanto lanciarsi fa bene. Grazie, Sergio, per averci chiamato, e quindi chiediamo anche a voi come la pensate in base alla vostra esperienza personale. Lo sport vi ha fatto bene? Chiamateci, scriveteci anche per raccontarci i benefici che avete ottenuto, ma anche per raccontarci, come ha invitato il dottor Confalonieri, le cose che vi trattengono dall'attività sportiva, o anche da cambiare, perché no, bolletta. 800 24 0024. Salva Danaio. Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità, ma non sarà così sempre. Ce la vogliamo ascoltare tutta questa canzone di Neffa che noi amiamo? Che è? Che c'ha da borbottare? È troppo bella questa canzone. Ah, ecco, eccolo qua. E guarda, allora, che non viene più, se lo tratti così. Stamattina fa un po' indisciplinato, professor Confalonieri. E allora, 800 24 00 24, naturalmente trattiamo noi, come sempre, in maniera leggera i problemi invece molto seri delle nostre famiglie. Sentiamo un po' che cosa è capitato a Francesco da Catania, che è un cambiamento in termini economici, ha provato a farlo, ma come dicevamo prima, e poi le società dalle quali si tenta di, come dire, scappare, Francesco, vogliono trattenerci, no? Un po' come fa la poltrona. Dottor Pescarmona, ecco, sentiamo Francesco. Sentiamo Francesco. Salve a tutti. Particolarmente io ho provato a fare una disdetta, anzi ho fatto una disdetta e la proseguirò a fare, semplicemente che sono stato contattato dalla compagnia telefonica e mi chiedevano un po' la motivazione. Io ho dato per trasloco, perché in effetti mi sposterò, anzi fuori dall'Italia, e anche per evitare, insomma, altri tentativi di trattenermi in compagnia. E mi chiedevano se nel mio alloggio sarebbe subentrato qualcun altro per non fargli fare l'acquisto del nuovo contratto o altro. Insomma, alla fine io ho detto tutto quanto no, e mi dicevano: beh, comunque è al corrente che poi deve pagare la penale, non so, una penale di chiusura, che sarebbe di 89 euro. Certo. E comunque procedo lo stesso. Senta, ma c'era nel contratto, perché anche questo è importante, no? Poi magari noi lo contestiamo, questa modalità, questa questione della penale del recesso, però se nel contratto magari iniziale c'era scritto, possiamo fare ben poco. Io ho fatto il contratto con pagamento su carta di credito per non avere addebiti successivi, ed è tutto stato sempre regolarmente pagato. Dovrei leggermi il contratto, certo, mezza enciclopedia, in qualche parte piccola, quale, insomma, vado a trovare. Francesco, la ringrazio. Facciamo commentare il suo caso a Marco Pescarmona. Tra l'altro, prima abbiamo detto la resistenza che le famiglie hanno al cambiamento è perché hanno paura di rimanere senza servizio. Magari non si rimane senza gas e luce, ma senza internet, senza servizio, senza DSL. Qualche volta succede che invece ci sia questo guarda, periodo di limbo. Ce lo segnalano gli ascoltatori, ma io ho molti amici a cui è capitato. Io sono rimasta lì alla stessa compagnia da un sacco di tempo, però dovrei fare una prova. Pescarmona. Allora, vabbè, i problemi pratici ci sono, ma sono abbastanza rari. In questo caso è possibile che l'ascoltatore abbia avuto un dispositivo, per esempio un modem incomodato d'uso, e il contratto prevedesse che questo debba essere restituito, oppure debba essere pagato una penale in caso di recesso. Quindi non è necessariamente una situazione anomala. Tra l'altro è anche una cosa positiva quando le compagnie, quando uno cambia contratto, chiamano magari per fare l'offerta migliorativa. Cioè, il fatto che i consumatori si muovano fa sì che le compagnie si danno da fare, si muovono anche loro. Esatto, si muovono tutti, perché nessuno vuole perdere clienti. 800 24 00 24. Per... volevo ricordare ai nostri amici che ci stanno seguendo che nella seconda parte della trasmissione, dopo mezzogiorno, ci raggiungerà il dottor Luca Voledo, che suggerirà dei rimedi naturali che aiuteranno un po' a far muovere, a vincere quelle resistenze. Ci sono infatti persone che non fanno attività sportiva perché magari si sentono, soprattutto in questo periodo dell'anno, particolarmente stanchi, altri quindi mancano di energia, altri invece che si siedono proprio perché hanno qualche dolorino, muscoletto che fa male, quindi o hanno subito un infortunio. E quindi, se avete delle domande, volete saperne di più, comunque restate, ma il dottor Voledo sarà con noi a partire dalle 12.15. E intanto andrei da Anna, che ci chiama da Modena. Buongiorno Anna, benvenuta. Buongiorno, grazie. Io vengo subito al dunque. Sì. Dunque, io ho 64 anni e circa 20 anni fa ho cominciato a correre. Sì. E mi ha preso talmente la passione, io tutti i giorni mi facevo 10-12 chilometri e conseguenza ho consumato le due anche. Eccola. E 8 anni fa sono stata operata in una e ho fatto il rivestimento, perché così potevo continuare a correre, così dicevano, e ho continuato. Però dopo alcuni anni ho avuto male all'altra e 5 mesi fa ho operato la seconda e non ne ho più. Ecco, non ha più da interventi più, da fare, no, ma la voglia di correre ce l'è, c'è ancora. È rimasta, ma adesso cammino. Brava Anna. Dopo 5 mesi io tutte le mattine mi faccio un'ora di camminata, abbastanza veloce perché la trasformazione mentale è rimasta. E chiedevo se è possibile. Ecco, perché grazie Anna, l'esperienza di Anna ci racconta che ci sono persone che si appassionano al punto che vanno anche al di là dei consigli del dottor Confalonieri. No, è che l'esperienza di Anna ci racconta anche un'altra verità fondamentale, che è quella legata all'individualità. Cioè, non è detto che chiunque si metta a correre a 44 anni lo faccia in modo continuativo, poi sia costretto a fare due protesi d'anca. Evidentemente qui c'era una predisposizione legata alla struttura di Anna, un fattore di rischio, per cui col sovraccarico legato alla corsa ha consumato questa articolazione. È quindi particolarmente importante, comunque, nel momento in cui si cambia e si comincia a fare un'attività, vedere come siamo fatti e quindi se nella nostra struttura c'è qualche fattore di rischio per cui l'attività che abbiamo scelto è quella giusta, oppure potrebbe nel tempo portarci a dei problemi particolari. E andiamo alle figure chiave e citiamo il kinesiologo, la prego. Beh, ma non l'abbiamo citato spesso. Perché così l'ascoltatore che ci scrive sempre messaggi dicendo vi dimenticate, che così siamo... Le figure chiave sono il medico sportivo per quanto riguarda gli aspetti cardiovascolari, respiratori o delle patologie internistiche in genere. E posturologo, il kinesiologo, per quanto riguarda le problematiche legate alla struttura osteomuscolare e alle articolazioni. Ma le figure non si fermano qui, le figure professionali che possono aiutarci a scegliere e fare sport nel modo giusto, a lungo, e anche a darci suggerimenti quando l'attività sportiva per una serie di ragioni va cambiata. C'è chi ad esempio passa dalla corsa alla bici. Ma poi se ci sono problematiche, è chiaro, c'è bisogno dell'ortopedico, c'è bisogno dello specialista e spesso c'è bisogno dello psicologo perché diventa una dipendenza. Insomma, noi siamo qua. Adesso è tempo di andare a sentire il nostro GR, ritorniamo subito dopo. Cuore e denari. Tempo. Tempo. Comunque vadano le cose, lui passa. E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo. Non cambiava mai. Dicevi tempo, ma allora quando arriva? Il ritornellino qua della canzone. Non mi annoio se cambio. In che modo? Non bisogna rimanere troppo fedeli, dottor Pescarmone, così, tranne che in amore, naturalmente. No, cioè, dopo tutto il discorso che avete fatto a microfoni spenti, qua siete tutti pieni di figli, ci mancherebbe altro, però... Con la compagnia telefonica o con il gestore. Ecco, la fedeltà non premia. Anche il dottor Confalonieri ce lo confermerà per l'attività sportiva, perché non possiamo ammazzarci solo di corso, dobbiamo fare anche qualche altra cosa. Ma dottor Pescarmona, la fedeltà, secondo lei? Sì, allora, sia con le banche, sia con le assicurazioni, sia con le compagnie telefoniche può capitare di essere i clienti più fedeli del mondo e di non avere le migliori condizioni. E ogni tanto le persone trovano questa come una delusione. La verità è che anche queste aziende fanno fatica a proporre delle nuove offerte a chi non si guarda in giro. Quindi se uno vuole restare con la stessa azienda, può provare a cambiare e poi negoziare per restare. Certo, e funziona molto spesso. Funziona molto detto, spesso se uno è soddisfatto, però almeno negoziare per restare bisogna farlo. Se uno vuole realmente risparmiare, guardarsi intorno è sempre la cosa giusta. Se uno per internet paga 40 euro al mese e i giornali sono pieni di offerte di operatori diversi che ne fanno spendere 15, direi che il minimo sindacale è fare una telefonata alla propria compagnia e chiederle, ma insomma, guarda, esatto, quello che succede, è possibile che sto con te da 5-10 anni, non mi puoi proporre qualcosa cosa di meglio? Un pomeriggio dovrai fare qualche telefonatina per me. No, lo fanno, e la verità è che anche le compagnie sono pigre, poi perché dovrebbero dare uno sconto a uno che non lo chiede? Certamente. Vedi? E allora, se siete in queste condizioni, raccontatecelo all'800240024, così anche nella pratica sportiva, dottor Confalonieri? Assolutamente sì, il cambiamento e la diversificazione sono fondamentali, ed è importante sia cambiare nel tempo, quindi magari fare un'attività, poi modificarla, dedicarsi a un'altra, sia cambiare sport contemporaneamente, quindi fare più sport, fare quello che è il cross training e abbinare discipline diverse. È garanzia di divertimento, è garanzia di ridotti sovraccarichi ed è garanzia di benessere, quindi direi assolutamente sì. Allora, abbiamo tanti ascoltatori, sì, e intanto io chiedo al dottor Confalonieri di prepararsi, perché vogliamo dare delle indicazioni pratiche per i nostri ascoltatori che spesso scelgono di muoversi, di fare attività sportiva magari per ridurre la pressione o il colesterolo, oppure per ridurre i chili, oppure sono soddisfatti della loro attività sportiva ma vorrebbero fare qualche cosa in più a proposito di cambiamento. E intanto abbiamo Renato da Ravenna, Walter da Verona, Luigia da Roma, chi scegliamo? Cominciamo con Renato. Renato, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io sono da Ravenna, causa a un male al ginocchio. Nel 2005 ho preso la bicicletta e ho iniziato ad andare in bicicletta, ho fatto una prima visita medico sportiva, mi hanno trovato che ho avuto un infarto senza accorgermene. Dopo 15 giorni mi hanno fatto 4 bypass alle coronarie. Finita l'operazione, un mese dopo ho iniziato ad andare in bici e dopo ha iniziato anche mia moglie, e adesso tutte le domeniche facciamo i raduni, giriamo tutto l'anno in bicicletta in giro per il mondo. Bravo. Perché ho fatto Canarie, ho girato la Valle della Morte, sono arrivato, insomma, da Ravenna sulle due ruote per il mondo. E l'invito anche che ci mandano su Twitter, proviamo a parlare di andare in bici al lavoro per mettere insieme attività fisica, spostamenti, ottimizzazione dei tempi. È una bella storia e ci dà un altro spunto molto pratico, perché ci sono tantissimi casi di persone che non stanno bene e cominciano a fare sport, ma ci sono anche sempre più casi di persone che decidono di fare sport, fanno una visita proprio in funzione dello sport che hanno iniziato e scoprono tutta una serie di problematiche fisiche che non sapevano di avere, perché ricordiamoci che sono scomparsi il medico scolastico e la visita militare, e questa doppia scomparsa ha avuto un impatto sociale devastante, perché se una persona non sta male non si controlla praticamente mai, perché non c'è motivo di farlo, e quindi spesso scopriamo casualmente tutta una serie di fattori di rischio, di patologie che prima scoprivamo perché c'erano questi screening obbligati per gli uomini e per le donne il primo, e per gli adulti e per i maschi il secondo. Certo, è come se non ci guardiamo intorno e non sappiamo che paghiamo magari una bolletta in maniera assolutamente alta, no? Per scarpona, sia per il telefono che per la casa. Allora sentiamo la nostra Luigia da Roma, che, come dire, ha provato a fare questi cambiamenti che noi auspichiamo questa mattina, ma poi gli ostacoli non è che manchino. Luigia, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuta. Ho 62 anni, sì. Ho fatto il coniglio per tanti anni, poi ad un certo punto ho cominciato a vedere, leggere, sentire, e ho cambiato. Ho cambiato prima la telefonia per poi tornare alla mia, poi ho cambiato la luce. Adesso mi trovo con la luce in gravi difficoltà. Perché? Perché non ho voglia di confrontarmi con queste associazioni di gruppo, e individualmente, siccome non sono stata, non sono una stupida, sono andata alla fonte. Mi trovo però che posso interagire solo o telefonicamente o con dei giovani impiegati che non mi sanno rispondere, per cui mi trovo ad avere fatture di morosità, di interessi, dopo un anno e mezzo che ho cambiato appunto fornitura elettrica, e ancora ad oggi, sia da una parte che dall'altra, io non ho il saldo da una parte. Conteggio chiaro. Cioè sono veramente... Senta Luigia, la compagnia alla quale si riferisce, quella romana che ha avuto tanti problemi negli ultimi 2 anni, lo so che ci sono ancora degli strascichi, quella è una situazione abbastanza particolare, quella di Acea, ne abbiamo parlato anche a Salvadanaio, litigando anche con l'azienda in maniera molto brusca, però c'è bisogno ancora di un po' di tempo affinché le situazioni si chiudano del tutto. Luigia, tenga duro, che cosa le possiamo dire? Se ci vuole scrivere una mail a cuoredenari@radio24.it, magari cerchiamo di capire a che punto è la situazione con il suo caso, visto che lei è così combattiva, se ci vuole scrivere noi prendiamo a cuore il suo caso molto volentieri. Una leonessa, direi. Eccoli. Continuate a scriverci e a raccontarci la vostra voglia di cambiamento attraverso una similitudine con un animale. Andiamo a Walter, che ci chiama da Verona. Buongiorno Walter, benvenuto. Esatto. Buongiorno a voi. Ci racconti un po'. Vada, Walter. La questione è che ero un pochino lepre anch'io, ma adesso sono diventato lumaca, non per paura, perché ho voluto cambiare compagnia telefonica che doveva darmi ADSL e la portabilità del numero che avevo precedentemente. E invece dopo 2 anni la DSL è arrivata e dopo un po' di tempo funzionava anche bene, mentre la telefonia è rimasta quella precedente. Sicché mi ritrovo a pagare 2 bollette, ecco. Sia di un gestore che dell'altro, per avere il servizio. Invece di risparmiare vengo a pagare di più. Adesso da maggio che sono scaduti i 2 anni ho cominciato a fare sovrascritture per ritornare al precedente, e reclami eccetera eccetera, però non ho concluso niente. Ci fa il nome Walter, perché tanto così alla fine della trasmissione ci chiamerà come al solito l'ufficio stampa, che ci contesterà l'impostazione di questa telefonata e dirà che non è vero, facciamo qualcosa. Mi dica chiaramente il nome delle due compagnie, così andiamo ai diretti. Allora, da Telecom sono passato a Vodafone. Ecco, e diciamo che la portabilità Vodafone non è riuscita a perfezionarla. Non è riuscita a fare l'addebito in banca, mi hanno accreditato un 100 euro di capara, come si chiama, perché non c'è l'accredito. L'ultima telefonata che ho fatto forse ha individuato il problema. Certo, dopo 2 anni, c'è cara grazia. Walter, grazie. No, tra l'altro stavo pensando, non è che stiamo parlando neanche di una compagnia che ne so, si sta facendo strada sul mercato adesso e ancora un po', stiamo parlando di un colosso gigantesco che ormai queste pratiche, per Scarmona mi rendo conto che la metto anche un po' in difficoltà a commentare un caso di un'azienda singola, però per queste aziende dovrebbe essere ad occhi chiusi, dovrebbe come una passeggiata, come si dice, no? Dottor Confalonieri. Sì, di solito queste situazioni vengono fuori perché ci sono disallineamenti tra i dati che aveva la compagnia iniziale e i dati del nuovo contratto, disallineamenti con i dati ma in un mese li allinei questi dati. Dovrebbero risolverlo, poi sono società che in realtà cercano di risolvere queste cose. Il mio suggerimento in generale è, quando ci sono queste situazioni, di chiamare la radio, di scrivere al giornale, di scrivere al garante delle telecomunicazioni. Tutte queste cose qua fanno sì che le situazioni poi vengano risolte rapidamente. Ma poi il problema grande è che queste società, anche per queste situazioni, per disservizi o pratiche commerciali scorrette, pagano delle gran sanzioni tutti gli anni, perché le autorità sanzionano in maniera anche pesante, ma a loro tutte queste sanzioni non fanno proprio nulla, perché in realtà le mettono anche a budget, per cui sanno già all'inizio dell'anno quanto pagheranno per sanzioni. Sono centinaia di migliaia di euro, ma per loro è già a budget questa cifra, per cui non si preoccupano minimamente. Insomma, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti e ci accompagni a non cadere in queste trappole. Noi avremo bisogno che il dottor Confalonieri, come ci ha promesso fuori onda, questa settimana si rendesse disponibile per i nostri ascoltatori che vogliono fare il passo e quindi passare dalla sedentarietà, proprio quella più convinta, a qualche piccolo passetto, o per chi magari vuole vuole migliorare le proprie performance, o ancora chi vuole si cambiare. Trova un po' al palo. Quindi come possiamo metterci d'accordo? Che lei, i nostri ascoltatori possono scriverle e raccontarle la voglia di cambiamento, che cosa vogliono fare, e lei potrà dare delle indicazioni. Certamente. Facciamo questo servizio. Certamente. Di Cuore Denari? Questo servizio per tutta la settimana. Scrivene sia chi deve cominciare, sia chi vuole cambiare, sia chi ha deciso di smettere, e magari può essere aiutato anche in questo passo. Come vi ho anticipato, ci sono anche degli aiuti che possono arrivare dalla natura per chi magari si sente con le batterie scariche, quindi non riesce proprio, anche solo l'idea di mettersi a correre, di andare a camminare o in palestra, dice ma chi me lo fa fare, oppure chi ci ha provato e si è trovato un po' tutto rotto, e allora perché non farsi aiutare da qualche rimedio ma scelto in modo oculato. Essere e benessere. La forza è con te, giovane Skywalker. E noi siamo molto abbiamo in forza. Un giovane Skywalker in linea. Esatto. Vuole presentarsi da solo? Sì, buongiorno, sono Luca Voledo, come molto volentieri sempre il vostro ospite abituale. Buongiorno. In un clima da guerre stellari. Allora, vogliamo dare delle indicazioni per chi dice sì, mi piacerebbe molto, ma sono tanto stanco, sta arrivando la primavera, ho avuto un inverno pesante, mi sento le batterie scariche, non ce la faccio. Dottora Voledo? Certamente, possiamo fare diverse cose, in particolare con rimedi naturali, non farmacologici, quelli che ci piacciono, insomma, ci sono molte sostanze che possono aiutarci a contrastare la stanchezza, giustamente questa è anche una stagione che un po' la promuove, a darci più energia, o per chi già si muove magari anche a migliorare le prestazioni. Sono le piante adattogene, per esempio, quelle che aumentano, cioè, la resistenza dell'organismo alla fatica e agli stress di ogni tipo, anche psicofisico, diciamo così, il notissimo ginseng, il meno noto eleuterococco, la rhodiola, la schisandra, o anche piante un po' più toniche come il guaranà. Si tratta di piante che sono state anche studiate, per esempio l'eleuterococco veniva somministrato e studiato negli atleti in Russia diversi decenni fa, e sono molto interessanti, funzionano dopo alcune settimane di assunzione. Qualcuna di queste può anche non essere indicata a tutti, per esempio il ginseng o il guaranà per chi soffre di pressione alta, soprattutto ad alti dosaggi o nell'uso prolungato, sarebbe bene evitare. Altre come la rhodiola, per esempio la schisandra, sono ben più tranquille, si possono assumere e hanno degli effetti tonico energizzanti molto interessanti. Dottora Voledo, ma la pappa reale funziona? Per questi stati di stanchezza, di astenia? Sì, bellissimo, bellissimo rimedio. La pappa reale è un prodotto dell'alveare prodotta dalle api, funziona proprio bene negli stati di astenia, anche nell'astenia dei bambini o degli anziani inappetenti o dopo le convalescenza, anche negli sportivi è un rimedio molto interessante, è una sorta di integratore multivitaminico naturale prodotto dalle api, molto ricco di aminoacidi essenziali, di minerali, di vitamine, di enzimi e di altre sostanze nutritive utili e benefiche. Si assume alla mattina, il modo migliore, almeno 500 mg di pappa reale fresca o a dosaggi un po' più bassi se si tratta di pappa reale liofilizzata. Per quanto tempo si fanno queste cure un po' ricostituenti? Le chiamavano così un tempo le nostre mamme. Bellissimo, bellissimo, ricostituenti fa proprio, è il termine perfetto. Per la propoli, per esempio, almeno un mese, in alcuni casi si può prolungare. È un rimedio molto tranquillo perché non ha una sorta di alimento, non ha controindicazioni note né interazioni farmacologiche. Attenzione però agli allergici gravi al polline, come per tutti i prodotti che arrivano dalle api. Quindi se vi sentite stanchi e non avete scuse, avete i rimedi del dottor Avoledo, il dottor Confalonieri che vi segue a fare passo dopo passo che cosa volete fare, ma c'è chi anche come Deborah invece attività fisica la fa. Esatto, e questo è un periodo un po' negativo, dottor Avoledo, perché la stanchezza cronica si fa sentire, si è veramente cronicizzata, insomma dopo l'attività fisica il mio recupero è particolarmente complicato. Intanto le chiedo perché, se può essere sopraggiunto un caso, lei magari non vedendomi, forse sarà necessaria una chiacchierata più approfondita. Però intanto, in quanto a, come dire, alimenti naturali che posso assumere per questo recupero più veloce, cosa posso fare? Beh, allora, dopo i 35-40 anni, sì, non so se ci siamo. La ringrazio, ma ci siamo e anche ben oltre, direi. La ripresa del corpo, il reintegro post-forza per chi già si muove può essere un pochino più difficile, soprattutto se la frequenza dell'allenamento è elevata. Ci sono delle sostanze utili che gli sportivi conoscono bene, in particolare per esempio gli amminoacidi ramificati, cosiddetti BCAA, leucina, isoleucina e valina, soprattutto per chi si muove tanto, quindi fa tanti chilometri tutti i giorni o quasi, servono per evitare che l'attività fisica consumi troppo i muscoli e faccia perdere massa muscolare. Allora si fa questa integrazione di questi amminoacidi a un dosaggio di, diciamo, un grammo per ogni 10 kg di peso corporeo. Questi sono molto utili, soprattutto poi se la dieta non è particolarmente bilanciata, quindi si priva magari di qualche categoria alimentare, di proteine nobili. No, ma devo dire che sulla dieta Deborah è perfetta. È brava. Okay. Mentre le diamo qualche vitamina? Sì. Un nutraceutico antiossidante? Vogliamo farmi mancare il nutraceutico? Certo. Sì, perché anche questa azione ha un senso, perché anche qua, soprattutto dopo la terza e quarta decade di vita, iniziano a diminuire le fisiologiche capacità del corpo di contrastare lo stress ossidativo, perché lo sport produce anche radicali liberi quando è fatto in eccesso. Allora ci sono delle vitamine antiossidanti di vario genere. Ad esempio, chiamiamole per ad nome. Ad esempio, le classiche, le storiche A, C e D, che sono quelle che garantiscono anche il miglior rapporto, diciamo, qualità-prezzo, senza andare a spendere troppi soldi. E poi? E poi un nutraceutico, così si dice, una sostanza, un integratore molto interessante per la sua notevole azione antiossidante, che è il coenzima Q10. Ok. Deborah è a posto, e tutte le persone che come Deborah fanno attività sportiva ma in questo periodo dell'anno sentono la fatica di farla. Esatto. Dottora Voledo, grazie. Naturalmente i suoi consigli li trovate anche sulla pagina di Cuore Denari. E buona giornata, a presto. Sento già meglio, guardi, nonostante io sia nella quarta decade da lei indicata poco fa. Sentiamo qualche ascoltatore? No, sì. Allora, siccome questa mattina abbiamo tanto Marco Pescarmona, bastonazzi, che abbiamo? No, un minuto. Ah, un minuto prima di chiudere. 30 secondi. Sì, allora che no, perché Giusy da Firenze ci voleva dire che invece ha cambiato compagnia telefonica e le è andato tutto bene. Si trova benissimo, per cui le abbiamo un po' bastonate, ma insomma, chiaramente di solito funziona. Poi qualche volta i problemi ci sono e si lamentano quelli che hanno i problemi. Ma insomma, qua questa puntata oggi c'è proprio letteralmente volata. Con noi il tempo vola. Esatto. E allora vi ripristineremo questo duetto al più presto. Che ne dici, Nicoletta? Certamente, bien sûr. Allora, grazie al dottor Pescarmona, al dottor Confalonieri. Grazie. Intanto fatelo lavorare, scrivete sul nostro profilo Facebook che cosa volete fare, come volete cambiare, lui vi risponderà. Ottimo. Noi ci vediamo, ci sentiamo, anzi, domani. Grazie a tutti. Buona giornata. Buona giornata.